Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti, per questo lunedì 20 gennaio, ieri tra pomeriggio e sera in piazza d'Agosto, una boccata d'aria, anzi d'acqua pura, una boccata di democrazia, ci si è riempiti i polmoni di Costituzione. Parlo ovviamente delle sardine che hanno riempito con 40.000 pisciolini la vasta piazza in una serata, in un pomeriggio pieno di musica e di parole. Di questo parleremo anche in rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, lunedì 20 gennaio 2020, con il notiziario in genere di Radio Bullets, il consueto appuntamento del lunedì. E noi cominciamo le notizie oggi dalla Spagna, dove una ragazza di 29 anni, Judith, è stata uccisa dal suo ex compagno, un agente dei Mossos de Squadra, che in seguito si è suicidato. Lui l'aveva perseguitata a lungo dopo la fine della relazione, pedinandola di frequente, entrando nei posti in cui lei andava, telefonando di continuo. Pretendeva che ritornassero insieme, cosa che non era affatto nelle intenzioni della ragazza. Il Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dice che non c'erano state denunce da parte di lei. Lei, che stava facendo i primi passi come infermiera, che era tornata a vivere dalla madre a Terrassa, nei pressi di Barcellona. Venerdì sera lui l'ha seguita per l'ennesima volta, è entrato nel garage della palazzina dietro di lei, le ha sparato in testa con la propria pistola d'ordinanza e poi si è ucciso. Non ci sarà processo per lui, ma la polizia ha classificato l'omicidio come violenza machista. È già il terzo in Spagna quest'anno, il secondo in Catalogna. Lo scorso anno sono state 55 le donne assassinate per mano del loro compagno o ex compagno in Spagna, più di una settimana, il numero più alto negli ultimi 5 anni. Ieri nel centro di Terrassa si sono riunite centinaia di persone contro la violenza degli uomini verso le donne e il sindaco ha dichiarato 3 giorni di lutto. Manifestazioni sono previste oggi in diverse città della Catalogna. E andiamo in Marocco, dove il 7 gennaio scorso è stato presentato davanti alla Camera dei Deputati il rapporto della missione parlamentare di studio sul fenomeno delle donne portatrici di mercanzia, le femmes porteuses o mujeres portadoras, e dei bambini di strada nell'enclave spagnola di Ceuta. Il rapporto arriva tardivamente e fotografa una situazione oggi mutata. Il governo marocchino ha infatti per il momento chiuso i valichi al trasporto delle merci, adottando una politica di controllo estremamente più severa che penalizza le donne da un altro punto di vista, quello economico. Ma la situazione raccontata dal rapporto, una ventina di pagine, era tutt'altro che felice. Le portese, dette anche famille, donne mulo, trasportano, meglio trasportavano quotidianamente mercanzie al di là della recinzione, con attese fino a 3 giorni al posto di blocco, dove non hanno nemmeno la certezza di poter passare. Si calcola che siano 15.000, ma ogni giorno non possono transitare più di 4.000 persone. Fino a quando non è stato introdotto l'obbligo di carrelli, sulla schiena avevano enormi sacchi del peso di diverse decine di chili e di dimensioni che a volte superavano 1 metro per 1 metro. Nella loro attesa, sottolinea il rapporto, sono state oggetto di violenza verbale e fisica, di maltrattamenti, di abusi. Passano attraverso uno stretto e lungo corridoio di barriere metalliche privo di qualunque servizio. Le donne intervistate dai parlamentari hanno raccontato di vessazioni da parte degli agenti della dogana o di agenti di sicurezza. La missione aveva iniziato i suoi lavori nella tarda primavera del 2018. Ci è voluto quindi più di 1 anno e mezzo per arrivare alla stesura di un documento che contiene soltanto delle prime linee guida. Tra queste il lancio di una zona commerciale a regime fiscale speciale nella provincia per dare lavoro alle stesse donne che oggi fanno quello che sostanzialmente è contrabbando di merce. Ma già la ministra marocchina della solidarietà, dello sviluppo sociale, delle pari opportunità della famiglia, Jamila El Moussali, ha fatto presente come il fenomeno del contrabbando rivesta dimensioni non solo economiche ma anche sociali e culturali. Il limite del rapporto parlamentare è che si limita a fotografare, senza nemmeno entrare troppo nei particolari, quello che già diversi reportage, anche con immagini video, avevano raccontato: l'insostenibilità di una situazione di frontiera, di fronte alla quale il governo marocchino ha trovato come soluzione da dicembre la chiusura dei valichi al transito di merce. Niente invece sul fronte della corruzione o del traffico di falsi certificati d'ingresso. e ieri circa 200 persone hanno sfondato le barriere di separazione nel tentativo non riuscito di entrare nella zona spagnola. Il prossimo 24 gennaio Arancha González Laya, ministra appena nominata da Pedro Sánchez, incaricata degli affari esteri, della cooperazione e dell'Unione Europea in Spagna, sarà in visita a Rabat. Per il momento però le enclave, oltre a Ceuta, quella di Melilla, a 250 km di distanza, non sono all'ordine del giorno delle discussioni. Of all the songs that have been sung within the state and nation, there's none that comes so near the heart as Uncle Sam's relation. Yankee Doodle is his name, U.S.'s honored station. Red and white and starry blue, his garb on each occasion. Stati Uniti, il 19° emendamento della Costituzione che sancisce il diritto al voto per le donne compie nel 2020 cent'anni. Decine di manifestazioni in diverse città statunitensi lo hanno già ricordato nella quarta marcia annuale delle donne che si è svolta sabato. La marcia era stata organizzata per la prima volta nel 2017, subito dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Nonostante la presenza di centinaia di migliaia di donne in tutti gli stati della Confederazione, il movimento è sembrato meno forte che nel 2017. Eppure questo è un anno importante in cui si decide per la candidatura alle elezioni presidenziali di novembre e tra i democratici ci sono tre donne. Intanto sempre sabato a Los Angeles, in contemporanea alla Marcia delle Donne, One Life, l'associazione cattolica sostenuta dalla Chiesa, ha organizzato il Walk for Life, una manifestazione antiaborto alla quale hanno partecipato decine di migliaia di persone. E noi restiamo negli Stati Uniti, dove nell'ambito dell'ampio studio Turn Away, una delle maggiori indagini mai fatte negli Stati Uniti su come l'aborto influisca sulle donne fisicamente, socialmente, emotivamente e economicamente, è stato dimostrato come a 5 anni da un'interruzione volontaria di gravidanza le donne continuino a essere certe di aver fatto la scelta giusta. Nei dati pubblicati la settimana scorsa emerge come l'84% delle donne che hanno partecipato allo studio riferisca di sentimenti positivi o di assenza di sentimenti e che solo il 6% parli di un sentimento negativo rispetto alla scelta presa, ma se si parla della scelta in sé, per il 99% è stata quella giusta. Secondo una delle ricercatrici che hanno elaborato i dati, puoi provare l'emozione del rimpianto eppure sentire di aver fatto ciò che era giusto per te. I dati sono in forte contrasto con le campagne antiaborto che insistono sul pentimento delle donne. È stato presentato giovedì il ricorso degli avvocati della ragazza britannica condannata 2 settimane fa a Cipro per aver mentito alla corte dopo che la giovane donna aveva denunciato uno stupro di gruppo. Ne avevamo parlato la settimana scorsa quando il giudice aveva comunicato la pena, 4 mesi di carcere con la condizionale. In quell'occasione i difensori avevano annunciato la loro intenzione di ricorrere alla Corte Suprema e così è stato. Questo è un momento molto critico per Cipro per quanto riguarda i diritti delle donne nei nostri tribunali, ha detto Argentula Ioannou, l'avvocato cipriota della ragazza e attivista della rete contro la violenza verso le donne sull'isola. Per la prima volta il Tribunale Supremo del Paese dovrà decidere se una donna è stata sottoposta a un processo equo, se i suoi diritti sono stati violati e se la nostra Repubblica ha adempiuto ai suoi obblighi di Stato membro dell'Unione Europea. Intanto in Gran Bretagna Victoria Atkins, parlamentare conservatrice e sottosegretaria di Stato incaricata del Ministero delle Donne, ha lanciato un'indagine conoscitiva sulle donne molestate sessualmente sui luoghi di lavoro, invitando le cittadine britanniche a condividere anche in modo anonimo la loro esperienza. Un sondaggio del 2017 rivelava come il 40% delle donne e il 18% degli uomini avessero sperimentato comportamenti sessuali indesiderati sul luogo di lavoro. La stessa Atkins ha rivelato alla BBC di essere stata molestata. I have suffered sexual harassment. I'm not going to be drawn on the details. Non entro nei dettagli perché non voglio essere definita dal comportamento sporco che gli uomini hanno avuto nei miei confronti, ha detto, ma ha aggiunto, raccontare ciò che è stato è utile per far capire alla politica quello che la politica deve fare per evitare che altri abusi si ripetano. Intanto la Commissione per l'Uguaglianza e i Diritti Umani, un'organizzazione parastatale no profit, ha pubblicato una guida per i datori di lavoro affinché riconoscano e prevengano le molestie sul posto di lavoro. Rebecca Inserrat, capo della commissione, sostiene che nonostante passi avanti fatti negli ultimi 2 anni, siano ancora troppe le aziende dove i comportamenti sessisti sono tollerati, spesso anche perché non ritenuti tali. Nessuna forma di molestia però può mai essere giustificata, scrive in una dichiarazione sul sito della commissione. Per troppo tempo l'onere di contestare un trattamento inappropriato è caduto sulla vittima. Con questa guida vogliamo che l'onere torni sui datori di lavoro. Francia, circa 40.000 persone secondo i dati della prefettura, 26.000 secondo i dati del collettivo Occurrence, hanno manifestato ieri a Parigi contro la procreazione medicalmente assistita, rispondendo all'appello dell'organizzazione Marchons Enfants. I manifestanti si oppongono al progetto di legge che apre a tutte le donne la possibilità di ricorrere alla procreazione e che verrà discussa a partire da domani al Senato. Tra gli organizzatori della manifestazione di ieri c'erano anche i promotori della Manif.Tu, per capirci quella contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso e poi ancora contro le adozioni da parte delle coppie non eterosessuali o single e poi ancora associazioni familiari cattoliche. E una donna è stata capo di una società petrolifera statale, ricchissima e amministratrice di associazioni benefiche, ma è anche la figlia di una dinastia di potenti accusata di malversazione, di riciclaggio di denaro e, dai falsi segreti rivelati dal Consorzio Internazionale di Giornalisti Indipendenti, di aver saccheggiato i beni del suo paese per interessi privati. Lei è Isabel dos Santos, la donna più ricca dell'Africa e tra le più ricche al mondo, figlia dell'ex presidente José Eduardo dos Santos, che per 38 anni e fino al 2017 ha governato l'Angola, il secondo maggior produttore di petrolio in Africa. Nei documenti, che il consorzio ha chiamato Luanda Leaks, dal nome della capitale angolana, sono esaminate diverse transazioni finanziarie che coinvolgono Isabel dos Santos e la società petrolifera statale Sonangol, in particolare nei giorni precedenti e successivi al suo licenziamento, avvenuto 2 mesi dopo il passaggio di potere in Angola. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto e vi lascio con il resto dei programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre informazioni per chi ci ascolta online, e vi do appuntamento a domani con Barbara Schiavulli. Una buona giornata. Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente, mi piacciono le sbarbine. Mi sento deficiente, yeah, yeah, yeah. Lo so che non conviene, mi piacciono le sbarbine. Ma poi chi si trattiene? Mi piacciono le sbarbine. Quelle hot 1,80 m, yeah, yeah, yeah. Quelle basse 1,50 m. No, no, no. Quel che conta è il calore. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. Mi piacciono le sbarbine, yeah, yeah, yeah. Anche se mi fanno soffrire, mi piacciono le sbarbine. Non c'ho mai niente da dire, voglio solo amore, yeah, yeah, yeah. Sono un tipo senza storia, mi piacciono le sbarbine. Non fregaccio la memoria, mi piacciono le sbarbine. Ma l'amore di una sbarba, yeah, yeah, yeah. Mi fa andare giù di testa, mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore. sbarbine con i tacchi. Mi piacciono le sbarbine che mi mandano nei mazzi. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yes. Lo so che non conviene. No, no, no, no. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Io voglio starci assieme. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Bologna che ha perso il feeling con la vittoria casalinga, una partita, quella di ieri contro il Verona al Dall'Ara, la più classica dai due volti. Bologna che parte con la sorpresa di Santander in punta, in centrocampo 3 con l'esordio del primo minuto di Dominguez, con Schoten praticamente vertice basso, ed è un buon Bologna sicuramente, che lavora magari di più sulle palle alte, sui lanci anche da lontano, ed è molto molto propositivo con Sansone, con Santander stesso, e quindi mette un po' alle strette la formazione Scaligia. Bologna che poi riesce anche ad arrivare su Casalinga, calcio d'angolo di Orsolini, una respinta del difensore veronese e il tap-in di Mani. Poi verso la fine del tempo, due per volte riuscire a raddoppiare, ma il portiere veronese Silvestri è attento a spingere i colpi di Sansone e di di Soriano. Poi nella ripresa il Bologna ha subito un episodio di un buon lancio anche qui di su Santander, il difensore del Verona pare aver colpito la palla con le mani, quindi viene anche addirittura pulso, poi il VAR richiama l'arbitro che lo fa gli fa tornare indietro, non c'era il colpo di mano perché è stato sulla spalla, e poi l'azione si era esplicitata al fuori dall'area, quindi niente più rigore e niente possibilità anche qui di raddoppiare. Poi al 65esimo del secondo tempo, la svolta della partita, arriva la seconda ammonizione per Bani, il Bologna rimane in 10 e lì perde un attimo di lucidità e di capacità di leggere l'incontro. Da quel momento il Verona inizia ad attaccare in maniera sempre più convincente e arriva poi al pareggio di Orino, un ex squadra del settore giovanile del Bologna, un pareggio che poi nel corso dei minuti restanti di Verona va veramente vicino al capovolgimento di fronte, e qui è da segnalare le buone parate di Skorupski. Peccato, perché era un Bologna che poi ha fatto anche esordire Barro, ma appena entrato è successo subito l'espulsione, quindi non ha potuto far vedere le sue capacità. Quindicesima partita consecutiva in cui il Bologna prende gol, è sicuramente mettere sotto esame la difesa. Come ben sappiamo, in settimana Ibanez non è arrivato, ma non direi di fasciarci più di tanto la testa per il mancato arrivo. Certo è che andare alla fine del mese, quando si chiuderà il mercato di invernale, il Bologna dovrà provare a fare un innesto sia a mio avviso come centrale difensivo che anche sulla fascia sinistra, perché il, diciamo così, la prova di Maia, che era, era capitano, non è sicuramente delle più esaltanti, compito a mio avviso anche eseguito, però probabilmente avere un'addizione in più non sarebbe male, visto anche i tempi di Dykes di recupero, che dovrebbero andare oltre il mese di marzo. Peccato, perché c'erano tutte le possibilità di portare a casa questo risultato, non averlo, diciamo così, ampliato nel primo tempo, e poi l'episodio dell'espulsione ha fatto perdere una buona occasione ai ragazzi di Sinis Mihajlovic, ma teniamo presente che sicuramente il Verona in questo momento è una delle squadre con cui giocare contro più complicati. Verona che non è venuto qui assolutamente a fare barricate, anzi a giocarsela, e quindi per questo per il Bologna è sicuramente un aspetto positivo, quando non deve fare totalmente la partita. Peccato per l'episodio dell'espulsione. Ora sabato c'è il derby a Ferrara, una partita importante, perché il padrone di casa, che giocheranno questa sera a Bergamo contro l'Atalanta, avranno sicuramente più motivazioni, anche dovute a una classifica non delle migliori al momento attuale. Quando parliamo, la Spal è ultima in classifica, quindi sarà una gara dedicata già di per sé per essere un derby, ma anche per la situazione di classifica dei biancoazzurri. Di Bologna auguriamoci che mantenga questa positività in attacco, ma che riesca a trovare, questo forse un pochino più importante, una entità difensiva migliore. Chi ha sicuramente avuto sabato sera una identità difensiva migliore, la Virtus, che vince contro Pistoia 90-60, una partita che veniva dopo la gara di Eurocup contro il Durazzo FK, vinta una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi. La partita contro Pistoia, che è una delle penultime in campionato, era sicuramente vista da coach Djordjevic come una gara delicata, dove era importante mantenere sempre un tasso di attenzione molto alto. La squadra lo ha dimostrato in maniera abbastanza continuativa durante la gara. Molto bene i giocatori, le ali italiane, perché alla fine ne fa 22 Ricci, ne fa 14 Aldi Rossi, poi a 9 veniamo Gaines, Cornu, lo stesso Teodosic, ma la possibilità di una gara che si è spenta nell'ultimo quarto ha consentito al coach bianconero di fare un po' di turnover, di non spremere tanto i suoi giocatori in vista di una gara mercoledì a Trento, se per l'Eurocup molto molto importante, perché come abbiamo sempre detto passano del girone a 4, passano le prime due, e il poter pensare di andare alla fase successiva comporta la vittoria in tutte le gare interne e provare a fare un colpo esterno. Trento, che ha perso mercoledì contro il Partizan abbastanza nettamente, ha perso nettamente anche sabato in casa contro il Reggio Emilia, è una gara abbordabile, e qui dovremo stare a vedere l'approccio sia dei padroni di casa che della Virtus in una gara, non dico da dentro e fuori, ma che andrà sicuramente alla fine della gara si saprà qual è il percorso che possono seguire le due squadre. In caso di sconfitta, Trento sarebbe quasi matematicamente fuori dai giochi, invece per la Virtus, in caso di vittoria, porterebbe a continuare a sperare in uno dei due posti. Una sconfitta a Trento complicherebbe tantissimo il proseguo del girone. Virtus con qualche acciacco, come ha detto poi coach Djordjevic nel dopo partita. Il turnover ha lasciato fuori Gaines, ma diceva che ci sono qualche giocatore con qualche infortunio che nel momento della stagione è sicuramente molto, molto facile da avere. La Virtus poi tornerà in campo sabato sera a Venezia, big match, anche qui una gara sicuramente da attenzionare per vedere se una eventuale vittoria sancirebbe ancora di più il primato dei bianconeri. Una sconfitta a Venezia consentirebbe probabilmente a Sassari di raggiungere i bianconeri, farebbe perdere il primato. Stiamo a vedere in queste due partite che sono nell'ambito di un gennaio-febbraio molto importante per la Virtus, che cosa accadrà. Una Virtus che è sempre molto presente alla finestra del mercato, ma allo stato attuale non pare esserci nulla di concreto. La Fortitudo perde 80-70 in quel di Venezia, appunto, una Fortitudo che doveva rinunciare a Stipcevic e a Daniel, di nuovo influenzato, una buona Fortitudo che per 35 minuti rimane in partita nonostante l'impossibilità di avere grandi rotazioni. Bene Cinciarini che ne fa 15, Robertson e Sims con 14, Aradori con 12. Sconfitta a Venezia ci può stare, però quello che era importante per coach Antimo Martino era quello di vedere, dopo la debacle contro Pesaro, una reazione del gruppo. C'è stato un gruppo che è stato anche molto attento sia in fase difensiva che in fase offensiva, cercando di sfruttare i punti propri di forza e andare a mettere il dito in qualche difficoltà veneziana. Ora domenica arriva Varese, una gara sempre delicata quando si gioca contro la squadra di Attilio Caia, che è molto bravo a mettere in difficoltà gli avversari. Probabilmente tutti e due verranno recuperati in settimana, ma come dicevo, quello che era importante era vedere una reazione per dimostrare alla società e ai tifosi che la squadra non era andata in crisi dopo le sconfitte pesanti derby Trieste e Pesaro, e quindi l'occasione domenica di ritornare alla vittoria per rasserenare un po' un ambiente che sempre sotto pressione, ma con queste sconfitte abbastanza pesanti è andato un po' in difficoltà. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. 9:33 minuti di questa nostra giornata di lunedì 20 gennaio. Buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, la sua rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi, che naturalmente apre dalla nostra piazza, la piazza 8 agosto, che è diventata la piazza 40.000 sardine. È una notizia che evidentemente buca tutti i giornali e i mezzi di informazione per la sua forza e per la sua novità. E allora il giornale non fa eccezione, per esempio il Carino Bologna, e cominciando dal locale ma andremo poi naturalmente anche al nazionale, nel mare di piazza 8 agosto. Sardine, non solo giovani, Odem, ecco chi sta con Santori, questo è il titolo d'apertura che ci dà il Carino Bologna. Sempre nei titoli andiamo alla pagina del Fatto Quotidiano, che racconta già in prima: stracolma la piazza, Sardine buona l'ultima, 40.000 in piazza per avere un futuro, grande successo del concertone prima delle elezioni, regionale sarà il voto a decidere se ci saranno altri appuntamenti. Questo è il quadro. Poi vengono interpellati diversi anche VIP presenti in questa carrellata di voci e suoni. Uno è Pier Francesco Pif di Liberto, che dice: straordinario e meraviglioso ciò che è successo, questo, già questo basta, mi ha fatto pensare che il mio posto oggi doveva essere qui. e naturalmente il contraltare di questa spinta, questa energia e questa forza della piazza è la paura che l'Emilia Romagna vada sotto il giogo della Lega in una stretta tra incompetenza amministrativa e dall'altra parte così tetraggine ideologica. C'è una FIFA blu in giro, la Lega monta senza un'idea, una valanga, una forza inerziale, racconta appunto Antonello Caporale da questa pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al Corriere. Sardine, la grande festa e la paura, noi alternativi al sovranismo, quello è un po' il tema che arriva, oltre 30.000 a Bologna, qui naturalmente come sempre c'è il balletto dei numeri, 40.000 la cifra ufficiale data agli organizzatori, 20.000 quella della questura, che è naturale, e poi qui siamo a 30.000, il Corriere fa una media, in media stat virtus, non è vero, perché una piazza così piena dalle 2:30 del pomeriggio, tra l'altro, fino, era già prima che iniziasse l'iniziativa alle 4, fino alla chiusura del notte fonda, con questo freddo c'era un gran movimento di persone che andavano e venivano, per esempio tutte le persone che venute da fuori non erano poche, chiaramente alle 7 sono andate via. Nel frattempo sono state istituite da altri che arrivavano da Bologna, che sono arrivati per la sera. Io stesso ho fatto lì il pomeriggio dalle 3:30 fino alle 7:30, poi il giro della fatica e diciamo anche l'età mi ha consigliato di andare a casa, anche se ero andato a casa contento. E non è capito in modo molto frequente ultimamente, torni da una manifestazione e sei felice dentro, questo è un dato che la dice lunga. Comunque, al di là delle mie sensazioni personali, torno a Marco Imarisio del Corriere della Sera. Sardine, la grande festa e la paura, noi alternativa al sovranismo, oltre 30.000 a Bologna si diceva, ma in tanti si interrogano sull'esito delle elezioni il 26 gennaio. Mattia Santori ammette che la nostra rilevanza dipenderà dalle urne del 26 gennaio e il Corriere torna a dire: ma le sardine devono dare delle risposte. Ben risposte ieri Guccini nel suo video messaggio alla piazza. Le sardine non devono dare delle risposte in futuro, hanno già fatto quello che hanno fatto, e poi toccherà alle forze politiche, visto che sono in qualche modo elette per legiferare, dare le risposte. Comunque non mancano certi contenuti, nella piazza sono sentite. Marco Ruotolo ha parlato delle morti sul lavoro, c'ho storie sull'immigrazione con Mussa, ci sono state vicende che parlano delle barriere architettoniche, le barriere periferie sociali, insomma tutti i temi che dipingono un quadro di insieme che ci riporta a una parola, cioè sinistra. Comunque, Sardina, ecco la svolta, pronto a offrirsi a tutti. Invece questo è il giornale che tratta chi era in piazza e i loro dirigenti come delle prostitute, no? Cioè, siccome ha detto che non siamo di nessuno, sono pronto a offrirsi a tutti. Questo è il ragionamento capovolto che dà Stefano Zurlo. In 40.000 Bologna, il leader Santori esulta, contattati dai 5 Stelle abbiamo già vinto. Sul proprio futuro e sulle possibili alleanze prendono un partito prematuro. Questo è un lettura in negativo di quello che succede. Tra l'altro poi continua la manganello mediatico su quel ragazzo dislettico che è stato oggetto degli strali della bestia. E allora eccolo qua, Nino Materi, il martire anti-Salvini ancora nel pallone, va in tilt sul lavoro perso. Mentre la verità mentre si dice che ecco il piano della sinistra per far ripartire l'invasione, perché la verità è l'unico giornale in Italia, i piani della sinistra per far ripartire l'invasione, perché la sinistra italiana sarebbe d'accordo con un'invasione, diciamo appunto giudaica e musulmana ovviamente, ma a casa per colpi di Salvini, ma la sardina si è reinventato tutto, ecco, continua anche la verità a dare addosso a questo ragazzo. Un raggio di sole dopo la pioggia, l'ha definito Francesco Guccini, l'apparizione delle sardine appunto è questo, dopo che piove per un mese, uno respira. E le sardine hanno dato voce a un mucchio di gente con cui la sinistra aveva perso contatto, altro che prima gli italiani, ci sono anche italiani contrari a prepotenza e arroganza. Le canzoni che si sono susseguite sul palco da Siamo una voce, l'inno diciamo delle sardine cantato da Malavoglia, alla Bella Ciao dei Modena City Ramblers, che era impressionante perché la piazza che cantava con i Modena ha sovrastato l'amplificazione da tante voci unite tutte assieme senza microfono. E Santori esulta, 40.000 Bologna, unica alternativa ai sovranisti. Come dicevi tu, le sardine hanno portato delle questioni, hanno posto un desiderio di vedere una politica fatta in un certo modo, poi sta alla politica farlo o non farlo. Non è certo compito delle sardine, non dovrebbe esserlo, e se li tiriamo per la giacchetta per fargli fare quello che non è il loro compito, è un movimento destinato a sfracellarsi, ovviamente, perché come abbiamo già visto poi nel passato, il movimento deve porre delle questioni, deve mettere dei picchetti, deve dei cunei, dare una visione. Dopo la politica deve concretizzarla in con gli strumenti politici, in leggi, in una visione politica concreta, provvedimenti e anche scelte, no? Cosa metti al primo posto, cosa al secondo, cosa al terzo, eccetera. L'alternativa siamo noi, è Repubblica, ovviamente, nella parte apre sulla prima pagina, però poi nella parte dedicata alla cronaca di Bologna dedica le poche pagine del lunedì, perché poi c'è sempre lo sport, no? Che occupa le altre, solo praticamente a questo. L'invasione delle sardine in 40.000 per salvare l'Emilia, direi l'Emilia Romagna, comunque vabbè, era troppo lungo Emilia Romagna per un titolo, si vede, è così. Il mare di Bologna, oltre ogni attesa, la manifestazione delle sardine tra musica e parole. L'entusiasmo convive con la paura per l'esito delle elezioni. Una vittoria della Lega non è proprio concepibile. E anche la stampa parla, appunto, decide di aprire la sua prima pagina con una foto centrale che inquadra Piazza 8 Agosto gremita. Devo dire che si stava belli fitti in piazza ieri, non erano quelle situazioni dove riuscivi a camminare all'interno, a muoverti, no, erano tutti fitti fitti. E quindi siamo in 40.000, le sardine ora pensano al papete, questa è un'altra scelta di titolo abbastanza incomprensibile della stampa. Bonaccini non ha provato a contattarci mentre qualcuno dei 5 Stelle l'ha fatto. Si studia un incontro con a proposito di quello che possono fare le sardine anche facendo politica, ma non facendo i politici. Si studia un incontro con i vertici di Facebook Italia per discutere di odio in rete. Queste possono essere sì iniziative dal basso, a cui poi appunto la politica si può affiancare. Sì, allora andiamo, per dire, secolo XIX, prima pagina, in fondo a sinistra, Bologna, 10.000 in piazza, 40.000 in piazza, le sardine cantano vittoria. Il tempo di Roma è curioso, perché certi stereotipi non si abbandonano mai. E allora il titolo, chiaramente, è il giornale di destra, paradosso delle sardine, quindi leggo: concertone, sparate VIP di sinistra, tutti noi con Rolex, tutti lì con Rolex. Le sardine si fanno il loro primo maggio, e chi mettono in fotografia? Un giovane ragazzo, un musicista che ha aperto nel pomeriggio, che ha una grave colpa, avere i capelli lunghi, e lo mettono subito in prima pagina, perché capellone, droga, sesso, rock and roll. Questo è, certe cliché non spariscono mai. Dunque, allora, una piazza per tre generazioni, torno al Carlino, le sardine siamo a 40.000, ma per la questura solo la metà. In treno e in aereo da tutta Italia manifestavano contro la guerra, manifestavamo contro la guerra, ora siamo qui. Ma c'erano anche tanti ragazzi che al tempo del 2003 non ancora erano in fasce. Pensionati, le famiglie con bambini e giovani, adesso restiamo un movimento. E che le sardine ieri abbiano vinto non c'è dubbio, anche perché dai commenti. Adesso, ovviamente, i commenti di chi è in qualche modo è gratificato da questa mobilitazione sono abbastanza scontati, come quello di Stefano Bonaccini, che manda con Macchi un grande abbraccio al mare sardine, che hanno invaso Piazza 8 Agosto a Bologna per una grande festa di musica, spettacolo e politica. Ma leggiamo Matteo Salvini, che sicuramente non è una sardina, è uno squalo, e dice: ho visto che le sardine fanno un partito, non è vero, ma insomma, e vogliono cancellare i decreti di sicurezza. Se vogliono venire giovedì a Bibbiano a chiedere chiarezza, sono le benvenute. Intanto gli ha fregato la piazza. Questo è Ma a proposito di contenuti, le sardine una cosa ce l'hanno chiara: abrogare i decreti Salvini. Ecco, bisognerebbe che cominciare dalla sinistra, che ti dicono apriamo le porte, apriamo qua, se i 5 Stelle contattano, si abrogano i decreti Salvini. Dopodiché è una prima risposta concreta, una cosa concreta che chiedono le sardine. Ma torniamo ai commenti che si sprecano sui giornali, anche di VIP del mondo dello spettacolo. Paola Turci. Il tweet di Paola Turci alla menzione di Bologna: Mattia Santoro è il miglior politico di questi anni. Come sempre si sprecano anche le sciocchezze, ma è il momento di entusiasmo. Da Pisapia ad oggi noi subsonica schierati, quindi parla il chitarrista Max Casacci, che appunto si è trovato in certe piazze e non ha mancato un appuntamento. E i commenti poi, beh, si sprecano in tutto il lungo e il largo. Si va a intervistare anche Del Rio e quindi vediamo cosa pensa un esponente del Partito Democratico. Vinciamo noi in Emilia Romagna, ma se si perde ci saranno dei problemi. E qui si parla del riverbero sulla coalizione di governo. Il capogruppo PD però non cadrebbe il governo. Beh, tu stai a vedere quanto prendono anche i 5 Stelle, cosa succede nel Partito dei 5 Stelle. È la domanda tipica. In caso di una vittoria della destra testa a testa, il candidato 5 Stelle potrebbe prendere, anche prendendo pochissimo, si potrà rivelarsi decisivo e far vincere Borgonzoni e Salvini. Ecco, non succederà, ma è uno scenario che non possiamo escludere ad oggi. Cosa succede ora? Sardine ci ricorda il vecchio detto celebre di Pietro Nenni: piazze piene, urne vuote. Sinceramente no, dice Del Rio. Le sardine stanno dimostrando un grande valore aggiunto per tutti noi. C'è gente nuova che sta avvicinando alla politica e lo sta facendo grazie a questi ragazzi. Naturalmente si può chiosare che quando uno semina poi raccoglie anche negli anni dopo. Quindi quello che sta succedendo in generazioni tra Greta Thunberg o fenomeni come le sardine, beh, credo che magari lo valuteremo meglio negli anni a venire. Comunque, sinceramente no, le sardine stanno dimostrando un valore grande aggiunto per tutti noi. C'è gente nuova che sta avvicinando alla politica, lo sta facendo grazie a questi ragazzi. Mi lasci dire che non ci sono solo facce nuove, queste piazze stanno facendo riscoprire la voglia di partecipare a tanti che l'avevano persa. Quindi c'è chi dice la battaglia sardina non è tanto per strappare voti alla destra, che mi sembra improbabile visto che c'è proprio uno scontro di civiltà e visione del mondo tra un modo di vedere e quell'altro, ma è portare al voto quell'Emilia Romagna che l'ultima volta non ha votato, distratta, convinta di comunque che non succedesse nulla e che adesso diventa necessario. Sì, d'altra parte, appunto come dicevi tu, Salvini è impegnato a fregare la piazza di Bibbiano, soprattutto un merito delle sardine, di questi giorni, è stato quello di mettere in luce la faccia più profittevole di Salvini e dei suoi, ovvero rimestare nella melma di ciò che è accaduto, si sta indagando, sia accaduto a Bibbiano, per farne propaganda politica. E direi che con la storia delle piazze questo proprio è venuto fuori in una maniera eclatante. Credo che le sardine non abbiano bisogno né della piazza secondaria né terziaria di Bibbiano, ma quello che volevano tirar fuori è già uscito, quindi vedremo anche prossimamente che scelta faranno. Già ieri parlavano di un passo o tre passi indietro, proprio su, perché è poco interessante, insomma, nel momento in cui diventa propaganda e speculazione politica, mentre loro avevano chiesto una piazza come negli altri paesi semplicemente per dire le loro cose come hanno fatto ovunque. A proposito di Salvini, oggi c'è il grande voto che non si capisce bene, in qualsiasi modo vada, quanto gli sarà favorevole. La Casellati ha deciso di calendarizzarlo oggi, quindi oggi si decide, ma è caso in giunta. La maggioranza è pronta a disertare. È possibile un pareggio tra favorevoli e contrari all'autorizzazione a procedere, determinante l'ex Movimento 5 Stelle De Falco. tra i democratici, malumori nell'area di Orfini per la scelta di non pronunciarsi. E poi c'è la mossa del cavallo di Salvini, si potrebbe definire così, che chiede ai suoi di votare sì al processo in modo da poter diventare il martire della persecuzione, del giustizialismo e del tintinnar di manette verso chi ha salvato l'Italia, perché lui continua a sostenere questa cosa e quindi continua a chiamare a sé il fatto che se si processa lui si processa tutta l'Italia, quantomeno quella che la vede come lui, ecco, non vorrei. Lui però dice tutti gli italiani, quindi siamo compresi pure noi, caro Alfredo, sappilo, va così. Ma abbiamo anche le pagine della Stampa che ci dicono che oggi appunto c'è comincia una delle ennesime settimane cruciali per il governo. Ormai è una frase che da quando c'è il governo 1 Conte sentiamo più o meno tutte le settimane. Questa è la settimana cruciale, è di settimana in cruciale in settimana cruciale, inanelliamo tante tristezze. Sì, abbiamo allora nelle piazze di provincia parte della volata decisiva. Bonaccini e Borgonzoni e le liste alleate stilano gli ultimi appuntamenti tra Pelino e Bassi, il centrodestra prova a sfondare e il PD a resistere, mentre Silvio Berlusconi è atteso mercoledì a Palazzo Vassè per un aperitivo con Bernini e Sgarbi. Questo è quanto, mentre Salvini naturalmente si mette il cappellino della Ferrari quando va a Maranello, si impastriccia il naso da Mirta che è una pasticcera, si va a vedere vicino a Peppone a Brescello, poi si mette su un trattore, insomma lui è un uomo veramente fregoli, dunque va... Io fossi stata la Ferrari avrei fatto un comunicato, perché il mio logo usato su un palco di propaganda politica, qualsiasi lato sia sta propaganda politica, mi farebbe venire i brividi. Comunque poi c'è Bibbiano, noi invece di Bibbiano parliamo di Bibbona. Cosa succede a Bibbona? Lascio Fratelli d'Italia, voglio salvare i migranti con Carola. Ops. Questo è. Lui è uomo maspiliano ed ex militare della Marina, attuale dirigente della Polizia Comunale. Ha riconsegnato al mittente la tessera di Fratelli d'Italia, di cui era stato dirigente. Ha annunciato la dimissione del gruppo in consiglio comunale e solo allora ha spedito le mail alle ONLUS tedesche chiedendo di partecipare come volontario al salvataggio degli immigrati. Un colpo alla Meloni, questa cosa. Comunque, questo è quello che. Parlavi della Gregoretti. Salvini spariglia, la Lega vota sì al processo, l'ex ministro portato in tribunale per il caso della nave Bonafede, chi attacca i giudici aiuta i delinquenti. Naturalmente sappiamo che Salvini qui è ritratto mentre si pilucca le labbra con la saliva in fuori da un gelato alla panna, questo è quella è la foto del giornale. Ma la tesi di Salvini che ha difeso i confini nazionali dalla nave della militare italiana è a dir poco curiosa, questa, perché tra le altre cose comunque poi chi l'ha difesa da 30-35 terribili pericolosissimi naufraghi infreddoliti, qui molte donne e bambini che erano un grande pericolo per il territorio nazionale. Comunque Salvini l'ultima giravolta, il Fatto Quotidiano, caso Gregoretti, cerca visibilità per i voti in Emilia dopo aver strillato per impunità, ora chiede il processo e vedremo stamattina come andranno le cose, perché appunto se la Lega vota per il sì si va in parità secondo i calcoli della commissione, allora il voto il relatore Gaspari andrebbe in minoranza, proprio per leggere un nuovo relatore e toccherebbe la Lega, quindi il gioco si continua. Ma molti pensano che Salvini faccia una melina elettorale, ma poi dopo come l'altra volta cerca lo scudo dell'impunità, che è molto comodo perché è facile mostrare i bicipiti con i deboli, è più complesso farlo quando c'è da rispondere per responsabilità. Comunque, come dice il Fatto Quotidiano, Salvini l'ultima giravolta cerca visibilità per il voto di Emilia-Romagna, ma in 40.000 invadono Bologna. Mattia mi sto svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Che mi sento di morire, e questa è la canzone di Modena City Rumbles. Ma si dice Salvini, chiuderemo la campagna elettorale portando qua anche i governatori dove noi governiamo, dove governiamo così bene. Allora andiamo alle pietre, il popolo del Fatto Quotidiano e Tommaso Montanari. Tommaso Montanari, sappiamo, noto critico dell'arte, delle belle arti in generale, che ci parla della laguna veneziana. La Lega e la resa di Venezia al business dei privati. AAA, svendesi città della laguna. Zaia metterà all'asta 32 immobili situati in centro, compreso Palazzo Balbi, a discapito dei residenti. Sovranista. Chi si oppone, giovani cittadini colti e determinati, segnano di rosso le case svendute al rapace Airbnb, che chiaramente diventano resort di lusso nascosti da social. Le alienazioni, dice Luca Zaia, del 2019 ci hanno fatto superare la somma di 38 milioni, ora si aprono nuovi investimenti per la salute, scuola e sociale. Insomma, si monetizza per poi sporcacciarsi tra virgolette di soldi e dopo rimanerne anche in mutande senza i palazzi. Orietta Vanin, la vendita degli immobili, che ha, dice il Fatto Quotidiano che la interpelle, che ha l'obiettivo di massimizzare le entrate, rischia di rafforzare l'offerta turistica a scapito dei residenti. Quindi Venezia è sempre più come una Disneyland. Però, dice Salvini, ultimamente ha fatto un convegno contro il razzismo, allora si è redento. Beh, non proprio, perché mentre appunto in Friuli mettono le macchine fototrappola per vedere gli immigrati che cercano di entrare in Italia, abbiamo Salvini diventa antirazzista, nel senso che diventa filosionista, ancora una volta leccando il deretano della forza più potente Israele in quelle zone a scapito dei palestinesi. Quello sarebbe l'antirazzismo di Salvini. Allora, ma di chi è la colpa del razzismo? Eccolo qua. Scenari politici raccontati dal giornale e Pasquale Napolitano. Salvini guarda di Israele l'antisemitismo è colpa degli immigrati islamici. Furono notoriamente gli immigrati islamici a fare la campagna contro gli ebrei nella Shoah. e ancora oggi sono loro che in qualche modo aggrediscono i rabbini, bruciano le sinagoghe, deturpano i cimiteri ebraici, sono questi, poi gli ultimi sono loro. Proporrò Gerusalemme capitale, grande, intanto più che antirazista si è trampizzato ad oltranza. L'ira dei musulmani così alimenta un clima d'odio. Questo. E allora subito arriva Fiamma Nera e Stein, che in quanto ad odio non è in seconda a nessuno, in quanto a sionismo nemmeno, che commenta: l'odio non è solo di destra, Matteo ha detto una verità. Ora, da una verità come quella a un'altra verità, che è quella di Stefania Craxi. Craxi è ancora vivo. Ah, un colpo di scena. Forse vive in un'isola segreta con John Lennon, Jimi Hendrix o Tolino Natalinotto, chi lo sa. I 5 Stelle alla Lega lo beatificate. Nel PD crescono le voci in favore del leader PSI, Gori, ci è andato. Adam Emmet fischi anti-D'Alema. Le parole sul collo, la figlia che guida la fondazione in memoria di Craxi annuncia un gesto del Quirinale. Ci mancherebbe solo che il Quirinale facesse un gesto per un latitante. Questo... Dopodiché, perché non Felice Rive che scappò per debiti in Libano negli anni 60? I latitanti non mancano tra politici e finanziari. E allora leggiamo dal il giornale che dice: Conte, la sinistra, la fuga meschina da Craxi, perché per il giornale il Presidente del Consiglio italiano deve andare a fare cerimonie a un latitante truffaldino scappato non in esilio come Pertini, ma scappato per evitare la galera per i soldi, per le truffe. Questo è quanto. Dunque, istituzioni assenti. Beh, questa volta lo Stato assente ha fatto solamente bene. Bene, io andrei un secondo a un'intervista che trovo sulla Stampa, Maurizio Landini. Si parla di pensioni, perché ho ottenuto appunto l'aumento, diciamo, il bonus fisso in busta paga anche per... ha allargato, diciamo, la platea di chi riceve quelli che il bonus 80 euro di Renzi. Ora Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, dice: bene gli aumenti in busta paga, Conte ha riaperto il confronto. Il 27 gennaio parte la trattativa per la riforma della previdenza in pensione a partire da 62 anni, è la proposta, perché la legge Fornero va superata. Dice ancora: la prossima settimana incontrerete il governo per parlare di pensioni. Cosa chiederete? Una vera riforma delle pensioni, perché è evidente a tutti che la legge Fornero ha aumentato le diseguaglianze e non ha risolto i problemi. Bisogna ricostruire un sistema pensionistico pubblico degno di questo nome. Scusate. Primo, acceleriamo la commissione sulla separazione tra spesa previdenziale e assistenza e quella sui lavori gravosi. Secondo, serve una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha avuto lavori discontinui e precari. Terzo, bisogna riconoscere il lavoro di cura delle donne, che non si può trasformare in una tassa. Quarto, serve un meccanismo di uscita flessibile. Quinto, rivalutazione delle pensioni e legge sulla non autosufficienza. Proposte praticabili e le risorse si possono trovare. Si è parlato di anticipare il pensionamento con il tutto contributivo. Che ne pensa? No, non funziona. Sarebbe un sistema molto penalizzante. Un sistema pubblico deve contenere elementi solidali, come fa la piattaforma di CGIL CISL UIL, che rivendica un'uscita flessibile a partire da 62 anni. E ancora, a proposito di pensioni, c'è questa notizia che fa discutere e soprattutto che vede contrari i sindacati, ovvero dei medici in corsia fino a 70 anni, perché ci si è accorti, dopo anni e anni di numeri chiusi, di concorsi bloccati, eccetera, eccetera, che non ci sono più dottori. E quindi qual è l'ideona? Far lavorare quelli che... lo fanno da sempre fino a 70 anni e poi mettere a contratto a tempo determinato gli specializzandi. Direi che è praticamente un capolavoro. È così il malato che cura il medico. Dottore, sì. Come si sente? Ma insomma, quel che c'ha. E così gli specializzandi possono intervenire in caso di cedimento dell'over 65.

pensando di far perdere tutto quello che è stato conquistato nel mondo del lavoro passando dai migranti. E se i lavoratori non si alzano, non vengono in piazza, prima o poi vanno sostituiti, perché i migranti sono costretti a accettare qualsiasi cosa pur di poter stare in questo paese, perché devono dimostrare di lavorare, devono dimostrare delle buste paghe con documenti di lavoro per avere il permesso di soggiorno rinnovato. Per cui la paga viene più basso e i lavoratori dovranno accettare quello che accettano i migranti e crollerà tutto. Per questo motivo tutti devono venire in piazza, manifestare contro questo degrado e contro questo razzismo, quello che sta divulgando, che sta andando oltre le aspettative di tutte. Quindi il 15 febbraio alle 2:30 di pomeriggio in Piazza Nettuno. Tutti in Piazza Nettuno, andiamo fuori, donne, uomini, lavoratori, migranti e non, in piazza per dire no a questo avanzamento del populismo, del razzismo e il degrado del lavoro. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E adesso il nostro cercapersone si sposta su Berlino, perché come tutto lasciava prevedere la montagna ha partorito qualcosa di poco più piccolo di un topolino. Quello che il Corriere della Sera parla della mini tregua sulla Libia, sono anche le mini tregue, una volta c'era la tregua, c'era la guerra e c'era la pace, c'è la mini tregua, perché siamo nell'età delle sfumature. Sarraj e Haftar si evitano e nemmeno firmano il comunicato finale, quindi una mini tregua senza i due diretti interessati mi sembra abbastanza zoppicante, ma spero proprio di sbagliarmi. Il ministro russo Lavrov, piccoli passi avanti, altrimenti non si può dire abbiamo fallito, quindi piccoli passi, ahimè, temo che se va bene sono rimasti fermi. Conte è soddisfatto, si lavora per stabilizzare il paese. Merkel dice sì all'embargo sulle armi, naturalmente, già che era previsto anche prima l'embargo sulle armi in Libia, si è ribadito un embargo che non viene rispettato, anche perché non hanno firmato Haftar e Sarraj, ma hanno firmato invece Putin ed Erdogan un documento che dice niente interferenze esterne in Libia, quando hanno dei mercenari loro che combattono in quel paese. Quindi francamente mi sembra un artificio diplomatico più con ben poco spessore. Ma l'ottimismo della volontà vuole prevalere nel Corriere e anche in altri giornali che leggiamo. Spiragli d'intesa per la crisi in Libia, la conferenza di Berlino, si profila una mini tregua, piccoli passi avanti come si diceva, ma i due leader Sarraj e Haftar si evitano. Fiduciosi anche il premier Conte, si lavora per stabilizzare il paese, e la cancelliera Merkel, che si dice favorevole all'embargo sulle armi, ha ribadito che siamo stati tutti d'accordo sul fatto di non sostenere militarmente nessuna parte in Libia. D'accordo anche Erdogan, che è lì ufficialmente con le sue truppe per sostenere Sarraj, comunque. Ma non è ancora chiaro se e quando i campi petroliferi e gli oleodotti bloccati dalle milizie vicine ad Haftar verranno riaperti. La domanda che si facevano le suore al tempo della prima guerra del Golfo, perché perché non si bombardava Timor Est, perché produceva broccoli, mentre si bombardava l'Iraq, produceva petrolio, torna buona anche per la Libia. Com'è che non c'è nessuna conferenza di pace a Berlino sullo Yemen, mentre sono tutti i capestali della Libia? Per un amore improvviso per il popolo libico? Non credo. Infatti allora Giannelli, la conferenza di Berlino fa due barili di petrolio, in uno c'è Haftar e l'altro c'è Sarraj, e Tripoli 1, Benghazi 1, andati in pareggio. Quindi si profila anche un'ipotesi di un intervento ONU di truppe di separazione umanitaria, così come venne combinato per esempio al tempo della guerra israelo-libanese. Missione europea, l'Italia è pronta se tutte le parti ce lo chiederanno. Amendola, sui migranti l'Unione Europea servono nuove regole, disse questo diplomatico ministro degli affari europei, che il volto Italia Bruxelles dice l'Italia è pronta, se delle parti ce lo chiederanno a partire. E subito allora Libero interviene su questa ipotesi: i nostri soldati sono attivi in 30 paesi del mondo, follia, spendiamo molti soldi per niente. Questo naturalmente non è quello di spendere soldi o meno, il problema è se servono o meno e se può essere addirittura focolaio di guerra a sua volta, invece che di pompieri dell'elemento bellico. Comunque Gian Michele Sin, così nella sua analisi, fotografa questo summit di Berlino. Ora l'Italia cambi passo, il piano post Berlino per domare Erdogan, petrolio, jihad e migranti, sultano in mano Tripoli, ecco come Roma può tornare centrale. Ma questo è è il tema che arriva dal giornale. Sì, è abbastanza ridicolo il tentativo dell'Italia di provare a inserirsi nel protagonismo della vicenda, però è sbagliato l'alleato a cui si appella. Conti agli USA, non lasciate il campo a Russia e Turchia, e gli Stati Uniti tutto vogliono tranne che essere coinvolti in questa roba, quindi vogliono stare pesantemente alla finestra e non muovere una virgola, anche perché vengono da quella che fu l'esperienza della politica estera, in particolare riguardo la Libia, di Barack Obama, che è stata giudicata fallimentare, e qualche problema l'ha portato l'adesione all'attacco in Libia perpetrato dalla Francia. Insomma, fu abbastanza un errore quello di Obama, e gli Stati Uniti, prima di ritrovarsi nella stessa problematica, preferiscono far pesce in barile, come si dice. Intesa sull'embargo delle armi in Libia, ma Sarraj e Haftar si evitano e non firmano il documento finale della conferenza di Berlino. La tregua appare fragile, ma va. E quindi intese di qua, intese Libia, c'è l'accordo, titolano tutti così, però hanno fatto tutti i conti senza l'oste, e l'oste in questo caso sono i due protagonisti principali della guerra in Libia, una guerra che invece viene appunto indirettamente, diciamo così, sostenuta da Russia e Turchia. Boris Johnson vince il premio Berlusconi 2020, ovvero nella foto di gruppo, mentre tutti i leader mondiali sono schierati per la foto di gruppo, lui si mette a chiacchierare con il vicino della Lega Araba, e tutti quanti si girano per dirgli: oh, guarda che c'è la foto, quindi insomma, vabbè, così per una nota di colore, scusate, ma tanto nulla di fatto, devo dire, su questa roba qua. Beh, ti ricordi quando Berlusconi faceva le corna in queste foto? Quindi... infatti vince il premio Berlusconi. Sì. Allora, andiamo a Bezos, l'uomo più ricco del mondo, l'uomo di Amazon, l'uomo che sta aumentando quanto di continua a crescere in borsa, e il suo valore è quasi 1.000 miliardi di dollari, una cifra che non si può neanche immaginare. Comunque, allora, Bezos, l'abito non basta a conquistare l'India, perché è andato in India e si è messo il sari, ha aggiunto le mani, ha fatto namaste, però ma nessuno ci ha creduto, un po' perché non lo può vedere il premier nazionalista indù Narendra Modi, di racconti Corriere, perché lui è di fatto il proprietario del Washington Post, che attacca il governo induista integralista, ma anche perché il miliardario ci ha messo le sue con delle gaffe colossali, perché a volte la ricchezza non è cultura, vero? Bezos ha cercato di migliorare la sua immagine mandando a giocare in un modo un po' goffo con gli aquiloni insieme ai bambini indiani, come buone, deponendo una corona di fiori al mausoleo dedicato a Gandhi. Ma poi, quando è apparso all'improvviso sul palco di Amazon, ha tolto la parola a Narendra Murthy, che è il fondatore di Infosys, gigante indiano del software, che non ha preso bene lo sgarbo. Soprattutto è arrivato in India pochi giorni dopo il voto del ministro dell'8 febbraio, scatenando le proteste dei piccoli commercianti scesi in piazza per protestare contro l'espansione di Amazon monopolista. Questo è il quadro, ma comunque si è messo l'abitino di seta e ha detto namaste. Detto questo, invece, andiamo a un'altra frontiera della rivolta, che viene sottovalutata, invece è decisiva, anche perché il Libano, stiamo parlando proprio di questo paese, è la valle, il paese dei cedri, è il paese che è attraversato da mille contraddizioni, tutte le potenzialità e le negatività del Medio Oriente si scaricano sul Libano. Quindi il reportage arriva da Lorenzo Cremonesi, molto presente per il Corriere della Sera, nelle rivolte libanesi, dentro la battaglia che incendia Beirut. Ma a quanto mi riferisco a mia fonte che Kingston, torno da lì, dal Libano, tutte le città sono come Beirut. Sono sempre più violenti dentro la battaglia che incendia Beirut, sono sempre più violenti gli scontri che vanno avanti da ottobre, è iniziato tutto dalle tasse, ma la crisi a questo punto è politica. Siamo stanchi di partiti settari e confessionali, vogliamo una società laica. Quindi in un paese che è una scacchiera, di un mosaico di drusi libanesi, falangisti in fondo cristiano e maroniti, ma ci sono anche i musulmani, c'è Hezbollah, filo sciita, c'è dentro di tutto, invece i giovani in particolare, ma non solo, vogliono una città multietnica laica, come era un tempo il Libano prima del disastro medio orientale, della guerra civile degli anni Ottanta. Bilanci: 400 feriti sabato nella capitale, oltre 114 ieri, di cui 47 sono finiti in ospedale. E io parlo di UFO, sempre collegandomi a uno degli uomini più ricchi del mondo, e vi spiegherò tra poco perché. UFO, ecco il database dell'aeronautica. Nei cieli 140 oggetti non identificati. Sono infatti attestati a questo numero gli oggetti volanti non identificati che tra il 2001 e il 2019 hanno coinvolto il territorio italiano e non hanno trovato una spiegazione scientifica. Non lo dicono gli appassionati di Star Trek o i patiti di X-File, ma l'aeronautica militare italiana, che ha pubblicato il dossier sugli avvistamenti che sfuggono a ogni spiegazione naturale o tecnica. L'aeronautica non dice che quella sfera che girava a velocità incredibile a 200 metri di quota sparava luci rosse sopra il condominio fosse un velivolo alieno. Si limita a precisare che dopo accertamenti, per capire se ci fosse qualche correlazione con eventi umani o fenomeni naturali, non è stato trovato nessun riscontro. L'episodio va quindi classificato come OVNI, oggetto volante non identificato. Dei 140 casi risolti, la Campania è in testa alla classifica con 20 avvistamenti rimasti inspiegati, seguita da Lombardia 19, Toscana 16, Lazio 14, Emilia Romagna 13, Veneto 10, Sicilia 9. I dischi volanti non sfrecciano nei cieli di Valle d'Aosta, Umbria, Molise e Sardegna, rimasti a zero. Il 2010 l'anno con più avvistamenti misteriosi, 27, nel 2017 nessun velivolo anomalo. Di ogni evento il dossier fornisce la scheda schematica che si conclude con un laconico: dai dati raccolti, appunto, è un OVNI. Ma la cosa più graziosa è questa, e qui entra uno degli uomini più ricchi al mondo insieme a Bezos, ovvero sabato nei cieli dell'Ossola avvistate decine di punti luminosi al confine col Canton Ticino. Non erano i volivoli della pattuglia acrobatica svizzera in addestramento notturno, né le riprese del nuovo Independence Day. La spiegazione è più prosaica: il sito di tracciamento satellitare Heavens Above sostiene si sia trattato degli Starlink, che sono i satelliti di Elon Musk lanciati in orbita il 7 gennaio. Mr. Tesla vuol creare una costellazione di satelliti a banda larga per fornire agli utenti internet ad alta velocità. E a questo punto andiamo allora a smog, tregua e possibile stop ai divieti. Oggi la decisione sulla revoca delle limitazioni non perché abbiano avuto un effetto il blocco alle macchine, ma perché ha piovuto. Questo. La pioggia e le correnti d'aria hanno abbassato gli inquinanti, conferma anche Corriere della Sera con Stefano Chiale, ricordando che fondi per il rinnovo caldaia a gasolio dal 2023 proibiti negli edifici privati, la stretta del comune autoresponsabile 22%, siamo nel milanese, del patrimonio primario, e fumo di sigaretta sotto accusa, forti emissioni di polveri sottili. Sappiamo che il sindaco Sala vuol proibire l'uso della sigaretta anche all'esterno, magari nelle file per l'autobus e più avanti per tutta Milano all'aperto. Non si capisce dove possa andare a fumare la gente, magari in qualche locale gestito dai gester, in cantina magari, perché prima proibirà anche nel salotto. Comunque, ANAS, invece veniamo ai ponti. Data room del lunedì della Gabanelli, che poi rientra in televisione alla 7 la sera. 3.500 ponti fuori controllo. E qui dovremmo leggerlo fuori nella fascia, fuori dai banconi dei bambini, perché veramente c'è da avere paura. Comunque, nel 2019 eseguito solo il 28% di ispezioni obbligatorie. Quindi non che hanno controllato bene o male, hanno fatto il 28% di quelle che sarebbero le ispezioni dovute per legge. E quindi poi, se non vado errato, il 72% è rimasto, come dice la Milena Gabanelli, viadotti di nessuno. Cioè, succede, non si, chi lo sa. Eppure il budget della società è salito a 29,9 miliardi. Ancora 703 questi viadotti di nessuno per l'appunto, un anno da questo allarme.